Devo dire che in generale viene rispettata. Entro quel termine i clienti possono acquistare, poi non è escluso che i nostri clienti possano consumare dopo l'orario previsto dal divieto. Certo, è una normativa che ci penalizza fortemente. Noi abbiamo riscontrato da un 30 addirittura un 60% di riduzione del volume d'affari. Qualunque tipo di proibizionismo non fa altro che alimentare l'illegalità e quindi nel nostro caso l'abusivismo fuori dei nostri locali, spesso extracomunitari, che si improvvisano venditori di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i frequentatori locali se vogliono possono procacciarsi bevande alcoliche e superalcoliche da altre parti, quindi in qualche modo favorisce anche quel fenomeno che ultimamente era quasi in via di estinzione del nomadismo notturno.